capitolo. Questo gruppo, lo si so. Sì, andare. Siamo in una diventata ormai già secca. Saluto a Gio Maria. Ciao Gio Maria, ci risentiamo alle prossime, ok. Poi la mendola è tutta quanta già secca, va ormai, di più, se si tende. Brutto vai però, la mendola è buona, va asciutta, se non è bionda. Non è bionda? Se è bionda. Come ce l'hai per vicino al confine mio? È tutta bionda? Cinco! Come bionda piena, ma non se siete di sere, ma malata siete in venti, tutti i capi. Non è buono che sono io, che sono battato il buco. Seria, proprio da gota della cucura. Coppa vittoria, Emanuele, coppa vittoria, una casa, va. Sì, dai, vedi la verità che ti sei seccata. Non intendo. Ha detto che ti sei seccata. Ti sei seccata? Sì, vabbè, un altro momento te lo dico, quando si accetta il muco. Faccia a faccia, anda bene, vabbè dai, io ne approfitto e mi sociamente e ci risentiamo, ok, ciao Emanuele, ciao Bacchisio e ciao Marino, alle prossime, ok, ciao. Come se tu si stava chiamando, io non ho aggiunto nessuno stamattina. Come te che cosa? Non ho sentito nessuno che si stava chiamando, chi si sta chiamando? La mia signora mi sta chiamando, è a Bozzi. Dai, ci risentiamo, dai, va benissimo, ok, ciao. Benissimo, ciao, mi sentite domani, sei consiglio, salto in casa, avanti, Bacchisio. Ciao, Tom, buonasera, saluto la signora, buonasera, buon tutto, a domani se tutto va bene. Anche io seguo la sorte di Tore, perché sono le 8 e è arrivata l'ora del merendero. Ciao Marino, buonasera, buon proseguimento di questo ancora, ciao anche a Emanuele, buon proseguimento, salutate i rispettivi Correa, Bacchisio ascolta finale e passa in QRT. Riprendi Marino. Ciao Bacchisio, mi hai sentito, buonasera, domani se consiglio, avanti Emanuele. Ok dai, ciao Tore, ciao Bacchisio, dai, ce la riascoltiamo domani. Tutte le migliori, ciao ciao, bye bye, vai Mari. Ok, sei rimasto, io e tu e bu. Eia. Ti stavo dicendo, Mari, aspetta che ti chiamo un attimo. Io sono qua, dai. Mari, Marino, Mari, Marino. Ah, sì.